Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Un saluto ad Edo che vi ha appena lasciati ed ecco qua Giulio Caperdoni come tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20 per accompagnarvi a casa nel caso stiate tornando dal lavoro o per farvi da colonna sonora mentre state preparando la cena. Giulio Caperdoni con Eclettica, cioè musica, cioè cinema, cioè lettore, che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, che è anche l'indirizzo da utilizzare per iscriversi alla lista nera di Eclettica, in modo da ricevere il dettaglio di tutto quello che vi ascoltate in trasmissione. Dici ancora le tue preghiere, piccola mia. Vai ancora a dormire la sera, pregando che domani tutto andrà bene. Ma i domani si mettono in fila uno dopo l'altro. Ti svegli e stai morendo, senza nemmeno saperne il motivo. Ti hanno sparato a bruciapelo, sei stata colpita a tradimento. A bruciapelo, piccola, sei stata ingannata stavolta. Ragazzina, questo è evidente. Diritto in mezzo agli occhi, piccola, a bruciapelo. Diritto in mezzo alle belle menzogne che ti raccontano. Ragazzina, sei caduta. Sei cresciuta dove le giovani crescono in fretta. Hai preso quello che ti offrivano e lasciato indietro quello che chiedevano. Ma quello che chiedevano non era giusto. Non dovevi fare quella vita. Sarei stato il tuo Romeo e tu la mia Giulietta. Di questi tempi non aspetti più il tuo Romeo, ma il sussidio di disoccupazione e tutte le belle cose che non potrai mai avere e tutte le promesse che sempre finiscono all'improvviso. Un colpo in mezzo agli occhi, a bruciapelo, piccola. Come le piccole bugie candide che dici per alleviare il dolore. Cammini nel mirino e alla prima mossa falsa si spengono le luci. Una volta ho sognato che eravamo di nuovo assieme, piccola, tu ed io. Di nuovo a casa, in quei vecchi club come una volta. Stavamo in piedi al bar, era difficile sentirci. La band suonava a volume alto e tu mi urlavi qualcosa all'orecchio. Mi toglievi la giacca mentre il batterista cantava fino a quattro. Mi prendevi la mano e mi trascinavi sulla pista. Te ne stavi lì e mi abbracciavi, poi iniziavi a ballare lentamente. Mentre ti stringevo più forte ho giurato che non ti avrei mai lasciata andare via. Questo era l'incipit di Point Blank di Bruce Springsteen. porteresti in un'isola deserta? Io porterei il mio boomerang. E te, Levante? Io porterei te. Tu mi piaci parecchio. O porterei anche, però, la carabina di Alejandro, eh? Così se si avvicina gli sparo io in mezzo agli occhi a quei bischero lì. Questo è quello che avrei voluto dire. Together we see another fiction. Alzi la mano chi non ha amato i My Bloody Valentine. Ecco, ora alzi la mano chi non ha amato i Jesus and Mary Chain. Bene, vedo poche mani alzate, quindi ci sono in molti all'ascolto che potrebbero essere interessati al disco d'esordio che sta per partire. Però prima vi devo ricordare che cosa vi siete appena ascoltati. Esattamente come ieri avete sentito in inizio di Eclettica due brani che da qualche settimana non comparivano, due gruppi che da qualche settimana non comparivano da queste parti. Prima gli Oh Death con Adelita e poi gli italiani Ex Otago con Pertini is a genius, Mirinzini is not famous. Ritorniamo alla questione delle mani alzate, ai ricordi che mi hanno fatto venire in mente relativi a My Bloody Valentine, Jesus and Mary Chain, questo trio, The Pains of Being Pure at Heart, che proviene da New York City. Esordiscono con un EP omonimo, The Pains of Being Pure at Heart, per la Painbow Records, un EP che giunge dopo qualche mese di rumors, di voci, che arrivavano da New York City per chi l'aveva visti dal vivo. Ora abbiamo la possibilità di toccare con mano, e il pezzo che ci ascoltiamo quest'oggi in Eclettica è Doing All The Things That Wouldn't Make Your Parents Proud. Passai da casa tua l'altro giorno. Tua madre disse che te ne eri andato. Disse che non c'era nulla che avrei potuto fare. Non c'era nulla che nessuno avrebbe potuto aggiungere. Io e te ci conoscevamo sin da quando eravamo sedicenni. Speravo che l'avrei saputo, speravo che ti avrei potuto chiamare soltanto per dirti ciao, Bobby Jean. Eri rimasto attaccato a me quando tutti gli altri si voltavano, storcevano il naso. Amavamo la stessa musica. Amavamo le stesse bands. Amavamo gli stessi vestiti. Ci dicevamo l'un l'altro che eravamo i più sfrenati, la cosa più folle che avessimo mai visto. Beh, speravo che l'avrei saputo, speravo che ti avrei potuto chiamare, soltanto per dirti ciao, Bobby Jean. Camminavamo nella pioggia, parlando della paura che avevamo nascosta al mondo. Adesso non c'è più nessuna persona, nessun luogo. Nessuno mi capirà mai come facevi tu. Può darsi che tu sia qua fuori, o in quella strada, da qualche parte, in qualche autobus o treno, viaggiando lontano, in qualche stanza di un motel dove ci potrà essere una radio che suona, e tu mi ascolterai cantare questa canzone. Beh, se è così, sappi che sto pensando a te e a tutte le miglia tra noi, e ti sto giusto chiamando un'ultima volta, non per farti cambiare idea, ma solo per dirti che mi manchi, amico. Buona fortuna. Addio, Bobby Jean. Questa era Bobby Jean di Bruce Springsteen. I fear the hearts of men are failing on these shores. Been chasing tails and trapping shadows. Whisper lanes and hoods, the conjuring of smoke. We're setting fire to sleepy town smelt blood and I heard the drumming rise. My quarter coiled up and baying, the crackling of wildfires, the breathing figures into life. Now we have enemies amongst us. Through it all I gave my hand, and through it all these days will end. Battles for your heart carry on. I draw the line, I hush the sounds we'll never meet till now. Old songs and folk tales dying, I lift my hands and fake a mirror for your flames. Set out in crescent ships, bowing to the shore. Fathoms of lost souls below us. I cup this fleet and blow its sails to the end. And this world comes apart in my hands. Through it all I gave my hand. And through it all these days. Your heart carry on. I draw the line, I hush the sounds we'll never meet till now. Setting Fires to Sleepy Towns, ci siamo appena ascoltati da Dale Randall, questo è il nome dell'artista che era l'ex leader dei Catchers, band ormai che si è sciolta, ed ha un nuovo progetto di nome The Sleeping Years che ci siamo appena ascoltati. Nuovo progetto che sta uscendo con una cadenza trimestrale con una serie di EP. E vi ho raccontato qualche settimana fa come grazie a MySpace Dale stesso mi abbia contattato e da lì sia nato il rapporto che ha portato al passaggio della sua musica all'interno di Eclettica. Ora invece è la volta del Canada, la volta di Vancouver, da cui provengono The Mohawk Lodge, il nuovo album dal titolo Wildfires, prodotto da Daryl Neudorf, che è anche il produttore di Nico Case, The New Pornographers. Noi ci ascoltiamo Wear 'Em Out.

una persona puoi portare? Allora, se ci posso portare una persona, io ci porto Silver Stallone, che quello è Stallone di nome e di fatto. Ai ai ai ai ai ai ai ai.